Per gli eventi del Dams 50 porterete a Bologna gli ultimi giorni di Pompeo uno studio. 35 anni fa proprio usciva il fumetto Gli ultimi giorni di Pompeo, un libro che ha fatto sicuramente la storia del fumetto italiano. Come vi siete approcciati a questa grande opera? Allora, sì, stasera presenteremo questo studio, mentre poi il debutto ufficiale sarà rimandato alla primavera del prossimo anno. E, è stata una serie di eventi, diciamo, l'idea di mettere in scena questo testo è venuta a Riccardo Goretti, che era un grande appassionato di Pazienza e in particolare di questo fumetto, appunto, di Pompeo. Mi ha coinvolto e poi dopo, strada facendo, ci siamo trovati ad aggiungere pezzi preziosissimi perché abbiamo incontrato Giorgio Rossi, il danzatore, che era anche amico personale di Andrea Pazienza, e ci siamo anche avvalsi della collaborazione preziosissima della vedova di Pazienza, Marina Comandini. Fin dall'inizio è stata una grande sfida perché ovviamente già l'idea di portare un fumetto in scena è molto rischiosa perché ovviamente viene privato di quello che è un po' la sua essenza principale, cioè delle immagini. Oltretutto, questo testo in particolare di Andrea Pazienza è una sorta di discesa agli inferi, nel senso la storia di un tossicodipendente che fa una scelta molto, molto precisa che lo porta poi alla morte. Devo dire che la scelta era una sfida quasi impossibile. Poi abbiamo voluto che tutte le parole, tutto il testo integrale del fumetto rimanesse così com'era, e quindi la sfida era doppia perché voleva dire riportare esattamente quelle che erano le parole di Andrea Pazienza in un contesto altro, al di fuori delle tavole che lui aveva disegnato, tra l'altro bellissime, e quindi abbiamo fatto questa scelta molto precisa di non tradire il testo nemmeno in una parola e di renderlo in questa dimensione, in questa tridimensionalità della scena. Quindi è stata una vera sfida, ma siamo contenti, siamo molto soddisfatti e i primi riscontri anche in questa fase di presentazione di questo studio devo dire che ci confortano perché stiamo riscontrando molti pareri positivi, insomma. Tra l'altro portate in scena un'opera multidisciplinare. Quali sono queste discipline che si incontrano, che si intrecciano sul palco? Allora sì, è multidisciplinare perché ovviamente partiamo dall'idea che mettiamo in scena un fumetto e quindi già questo è una forma d'arte particolare o comunque una fonte di ispirazione, soprattutto per il teatro, abbastanza strana. Poi c'è una parte narrativa, diciamo, che è legata al racconto appunto del testo stesso, e poi ovviamente c'è la scena e quindi i fumetti, le tavole che in qualche modo vengono fuori da quelle che sono le immagini trasmesse dall'adattamento teatrale, e infine c'è la gemma, diciamo, che impreziosisce poi il tutto e che rende anche molto più comprensibili alcuni passaggi particolarmente difficili che è appunto la danza e gli interventi danzati di Giorgio Rossi, per cui si intrecciano e si incastrano parole, immagini, danze, movimenti, significati che in qualche modo esplodono durante la scena, che rendono lo spettacolo sinceramente anche molto dinamico, devo essere sincero, insomma. Dove e quando vi vedremo in scena a Bologna? Sì, siamo a Bologna, nella saletta del Dams, oggi pomeriggio alle 18 e poi alle 21 in serale, insomma. Massimo, io ti ringrazio per averci raccontato da più vicino il vostro studio sul fumetto Gli ultimi giorni di Pompeo. Grazie mille. Perfetto, grazie a te.